questo è moderno, io sono sereno, non uno scemo. Riesco a capire se è sinemo, non riesco a capire ciò che vedo. Mi piace o no la merda che faccio, per alcuni uno strazio, invece ad altri il manda nello spazio. Sentite queste basi, le ho fatte fare da alcuni evasi. Fra un po' c'è scritto pure nei diari di sera, non c'è bisogno che ti gasi. Questi sono problemi ormai superati, queste sono fasi inventate come posizione a letto, che per vengono usate le mie canzoni regalate. Qui nel mondo rap basta solo astuzia, non vuol dire che devi essere giusta, ma una che gusta la gente, una che ogni relazione aggiusta. Poco angusta, Fausto ad esempio rasta, Nicola marijuana che si fuma diventa sballato. In un mondo fumato dove ognuno di fumo si è incannato e si trova poi in un angolo tutto mitragliato. Questa è la mia creazione, si può definire perfezione. Non so perché, ma è la mia reazione. Questo demo voglio che gira per tutta la nazione. Può essere pure che mettiamo due paesi in coalizione. Io odio gli emo, è la mia sottenzione. Questo è il moderno, io sono sereno, non uno scemo. Riesco a capire se sono nemo, non riesco a capire ciò vedo. Attento, questo è il moderno, io sono sereno, non uno scemo. Sì, sì, solo bla bla DMZ da PC, mentre nel club mi vedo insieme a Young D. A repare al posto di cazzeggiare, a breccare al posto di spacciare. Molti pensano che è una cosa bella da fare, se solo provano nella vita si macchiano di reato con la china. E poi non parlano più, scappano dalla loro mini tribù e poi si mettono la testa lì giù. Voglio dire che bisogna far circolare poche e ammettere che solo le cose voi date. Non riesco a capire cosa mi continua a tormentare. Forse il tormento, forse il mio accento, ma io sto demo, ci do dentro. Se la mia soga andrà in radio, voglio che si sente su radio, su basio. La musica commerciale per molti troppo banale, fortuna che ancora non ho nessun rivale. Se ce ne fosse uno, cazzi suoi, perché non mangio come fanno gli avvoltoi. Stavo ubriaca tua mamma quando ti ha generato, per contro di me si vede che sei disperato. Se peggio di te uno scherzo della natura. Senti, questo è il moderno, io sono sereno, non uno scemo. Riesco a capire se sei un memo, non riesco a capire ciò vedo. Senti, questo è il moderno, io sono sereno, non uno scemo. Bene. Per la natura, questo per adesso è la mia stesura, però è meglio che il malato lo mandate in una cura. Grazie dell'ascolto, ma mi piace il flow che adotto, ma pure ancora devo mettermi sotto. Questa merda va a finire nessuna etichetta discografica. Ho sento questo spara a manetta, soprattutto sopra i pacchi, tutta roba perfetta, come la punta di una vetta, poi usata per una vendetta. Attenti, questo è il moderno, io sono sereno, non uno scemo. Riesco a capire se sono nemo, non riesco a capire ciò vedo. Attenti, questo è il moderno, io sono sereno, non uno scemo. Ah, bene.